Il cristianesimo si distingue da tutte le altre religioni per tanti aspetti, fra questi ve ne è uno particolare, non solo per la sua religiosità, ma soprattutto per la sua apparente assurdità, e cioè che Dio ama le sue creature e il creato. Personalmente ritengo che i detrattori della fede cristiana trovino nell'amore di Dio il maggior ostacolo per porre fede in Lui, anche se bisogna aggiungere che un'anima è attratta da Dio proprio per il suo amore. In effetti, quando si annuncia l'Evangelo e il relativo messaggio che Dio ha amato e ama tutti gli uomini perché ha dato Cristo Gesù a morire in croce per il perdono di tutti i peccati, per reazione la maggior parte di persone domanda che gli sia dimostrato in che cosa consiste l'amore di Dio. Se Dio ci ama, rispondono, perché permette tanta sofferenza? Se Dio è amore come voi dite, perché non ferma coloro che fanno del male? Il cristianesimo ha una risposta a queste domande e consiste nell'affermare che Dio è amore proprio perché lascia la libertà all'uomo. Il problema dell'amore di Dio, però, non consiste in quello, ma piuttosto nel modo in cui egli ama, un modo o una maniera che dà tutti i diritti di pensare che Dio non ama affatto. Infatti, se nella parola di Dio, cioè il libro nel quale Dio ci ha comunicato il suo amore, non fosse scritto che Dio è amore, anch'io, nell'esaminare il metodo usato da Dio per manifestare il suo amore, sarei propenso a dubitarne. 1 Giovanni 4, 8-16, condivido la posizione di chi ritiene che l'amore di Dio sia una dottrina difficile da capire e da accettare, anche se per alcuni questa visione può sembrare immatura e irreale, ma a mio avviso sono coloro che vivono in una continua estasi di godimento dell'amore di Dio a non essere realisti perché meno, ed è bene dirlo subito, l'amore di Dio a volte è sgradevole. Sì, l'amore di Dio a volte è proprio sgradevole. E tutto ciò che è sgradevole, per quanto siamo convinti che possa essere utile, buono e benefico, viene istintivamente rifiutato. Nessuno di noi prende una medicina amara tanto per gustarne il sapore disgustoso, come nessun diabetico si punge volentieri un dito per testare il tasso di glicemia nel proprio sangue. Il dolore, lo sgradevole, ciò che è antipatico e fastidioso, non piace e non attira. L'impulso originario di ognuno di noi è quello di preservare e di sviluppare noi stessi. Perciò tutto ciò che ci sembra autolesionismo viene rifiutato. Quindi, se l'amore di Dio è sgradevole, è normale che ci sia da parte nostra un certo rifiuto. Rifiuto, occorre ripetere, non nell'amore di Dio, ma dei metodi da Lui usati per esprimerlo. Ottima è la riflessione di Donald A. Carson nel suo libro dal titolo alquanto significativo L'amore di Dio, una dottrina difficile, dove mette in evidenza come sia percepito l'amore di Dio oggi. L'amore di Dio nella nostra società è stato ripulito da qualsiasi cosa che la cultura reputa scomoda. L'amore di Dio è stato epurato, democratizzato e soprattutto sentimentalizzato. Questo processo va avanti da un po' di tempo. A quelli della mia generazione si insegnava a cantare: ciò di cui il mondo ha bisogno ora è amore, dolce amore, e noi, con forza, informiamo l'Onnipotente che non abbiamo bisogno di un'altra montagna, ne abbiamo già abbastanza, ma che non ci farebbe male un po' d'amore. Ma non è sempre stato così. Per generazioni, quando quasi tutti credevano nella giustizia di Dio, qualche volta era difficile credere nell'amore di Dio. Il sermone sull'amore di Dio giungeva come una stupenda buona notizia. Oggi, se diciamo alle persone che Dio ci ama, è difficile vederle sorprese. È naturale che Dio mi ama, deve essere così. Perché non dovrebbe amarmi? Sono carino o perlomeno amabile, almeno quanto il prossimo. Sono una persona per bene, tu anche, e Dio ci ama entrambi. Questa è la ragione per la quale sostengo che chi mostra unicamente tanto entusiasmo davanti all'amore di Dio, a mio parere dimentica l'altro aspetto della medaglia, e cioè che l'amore di Dio non è sempre attraente né gradevole. Quando se ne parla accademicamente e le diamo tutti un coro gioioso per l'amore che Dio ci mostra ogni giorno, ma quando si è nella fossa del dolore, scrive James E. Means, al quale è morta la moglie di tumore, Kalich, È una grande confusione. Sono confusi i sentimenti, gli scopi, le valutazioni, la direzione, i desideri, insomma. Tutto. Dal suo libro Gioia nel dolore, coraggio nella crisi. Quando il dolore spezza il cuore, prosciuga le sorgenti profonde della vita, molte certezze vengono minate alla base, la ragione è incapace di soccorrerci, i sentimenti vengono scossi violentemente senza pietà e benché sappiamo che Dio ci ama, non gradiamo le sue manifestazioni d'amore. Terribilmente toccato negli affetti, James continua il suo sfogo. Ero cresciuto nella convinzione che l'amore e la benevolenza di Dio mi avrebbero preservato dalla sofferenza. Pensavo che egli avrebbe sempre provveduto alle mie necessità. Mi avrebbe protetto dai nemici. Mi avrebbe dato la forza per resistere alle tentazioni ed avrebbe guarito le mie malattie. Gli uomini avrebbero potuto abbandonarmi nel momento del dolore, ma non certo Dio, in nessun caso. Dio sarebbe stato sempre pronto ad intervenire per liberarmi. Ho presenziato a tante riunioni di testimonianza. E non ho mai sentito qualcuno affermare che Dio lo aveva deluso. Sì, è vero, a volte Dio ci può deludere, ma questo succede quando noi ci illudiamo, quando sono le nostre aspettative che non vengono esaudite. Ci sono eventi nella vita che scuotono profondamente la fede in un Dio di amore. Ho letto di un uomo colpito da un infarto mentre guidava. La macchina ha sbandato andando a falciare due ragazze di 16 e 8 anni. Non poteva Dio, che è sovrano in tutte le circostanze, fare in modo che la macchina andasse dove non c'era gente. E che dire di due giovani consacrati nell'opera di Dio, che, mentre guardavano delle vetrine di negozi assieme ai loro bambini, vengono falciati anche loro da una macchina che sbanda. Senza guardare altrove, non si è forse scossi quando viviamo delle situazioni drammatiche nelle quali non vi è alcuna via di uscita? Che dire di un marito che è totalmente insensibile verso la moglie e un moglie che tiranneggia il marito? Dove è l'amore di Dio? Dove stanno tutte le promesse di Dio nei momenti traumatici della nostra vita? È vero che Dio ci ama, ma il metodo che usa non è per nulla gradevole né desiderabile. È vero che la volontà di Dio è perfetta, buona, accettevole, Romani 12.2, ma non mi risulta che la scrittura dica che è anche gradevole. Ha ragione, osserva acutamente sempre James. Molta parte delle nostre convinzioni religiose è traboccante di sentimentalismo e carente di contenuto teologico. Spesso insegniamo agli altri quello che ci piace credere invece di affrontare la realtà. Quanto è vero che a noi piace pensare all'amore di Dio come pensiamo all'amore umano quando questo ci procura le più alte soddisfazioni? Eppure, come è deleterio paragonare l'amore umano all'amore di Dio, è altrettanto positivo invece fare il giusto paragone fra l'amore di un padre nei confronti del figlio, paragone che troviamo nella lettera agli Ebrei. Voi avete dimenticato l'esortazione che Dio rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione di cui tutti hanno avuta la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Ebrei 12.5.11. Tra le cose che mi piacciono della parola di Dio, è che gli scrittori non erano dei sognatori né degli idealisti, ma la realtà con la quale si esprimevano è disarmante e accattivante. Per far comprendere ai lettori l'amore di Dio, e forse anche perché potessero accettarlo, meno l'autore della lettera, gli ebrei prende in prestito la relazione tra padre e figlio. Se l'amore di un padre verso il figlio lo induce a correggerlo per il suo bene, quanto più Dio, che è amore, correggerà coloro che ama. Notiamo che l'autore della lettera si rende conto che il metodo benevolo della correzione non è molto gradevole, perché aggiunge che la correzione non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. E questo è vero. Quando considero come Dio mi ama, devo ammettere che non è di mio gradimento, come del resto non era di mio gradimento quando ero corretto da giovane. Eppure, poiché su questa terra allo scopo di insegnare la disciplina si impartisce la sofferenza, occorre accettare che anche per Dio non vi sia altro mezzo che farci soffrire. Quando si prova un lecito e naturale bisogno di affetto e non si ha nessuno che lo soddisfi, quando un tumore o una morte ci colgono, a nostro parere prematuramente, quando devi assistere per anni una persona cara resa disabile o che vegeta in un letto, l'amore di Dio più che consolarci ci disorienta. Eppure, come dice l'autore della lettera agli ebrei, se i nostri genitori ci hanno corretti per pochi giorni come sembrava loro bene, e li abbiamo riveriti, rispettati, onorati, e se siamo stati sottomessi a loro nonostante fossero mancanti, quanto più dobbiamo sottometterci a Dio, quanto più dobbiamo onorarlo quando ci corregge per il nostro bene e per diventare partecipi della sua santità. Se abbiamo difficoltà a comprendere l'amore di Dio, non è perché il suo amore sia imperfetto, ma a causa dei nostri sogni irreali e nella sgradevolezza dei metodi che Dio usa per amarci. Neppure per Gesù è stato gradevole o attraente venire sulla terra per essere l'uomo di dolori, come non è stato piacevole andare sulla croce. Eppure l'amore di Dio lo ha seguito fino all'ultimo respiro. Per non disonorare Dio, il suo amore e le sue vie, noi che abbiamo posto fede in Cristo, dobbiamo onestamente ammettere che i modi di agire dell'amore di Dio non sono sempre di nostro gradimento e a volte, se siamo onesti, fino in fondo, a volte non approviamo neppure i suoi metodi, ma questa non è mancanza di fede o d'amore. È semplicemente quell'onestà che ci rende umani. Se non sappiamo e non abbiamo il coraggio di essere umani, abbiamo perso l'obiettivo per il quale siamo stati creati. Non credo che vi sia un fallimento più grande di questo. Gennaio 2006, Ellero.